Aveva solo 14 anni quando... Ne avevo solo 10 eppure... C'è chi ne aveva 12, ma se ne sentiva... 9. Sì. 9. In realtà, a pensarci adesso avrei preferito averne meno. Sì, perché se hai un aneddoto, uno solo, non puoi accontentarti. Devi fare in modo che sia... sensazionale. Io, se potessi tornare indietro, cercherei di farmi violentare a 4 anni. Sì, è l'età giusta. Ti restano i ricordi. Ti segnano la vita per sempre, i ricordi. Per sempre. Sono sempre stata convinta di avere delle antenne sparse su tutta la superficie del mio corpo. Andrei in giro nuda, infatti. Perché l'idea di tenerle tutte piegate, accartocciate, sotto i maglioni, i pantaloni... Beh, generalmente evito gli abbracci, almeno. Antenne, sensori di piacere, Cassandre, oh, del pericolo, da sempre con noi, già appena nati. Beh, mi sentivo più grande della mia età. E comunque, a 12 anni, usi già il cervello. Dicono. Mica tanto, però, se non hai mai vissuto a contatto con nessuno, a parte i tuoi nonni. Ma questa è un'altra storia. In realtà, non so da dove cominciare. Vorrei essere originale, almeno nel dire banalità. Io non voglio dire banalità, quindi ci provo. Intanto provo a pensare che a qualcuno qui possa interessare. Rinuncerò ad interessarmi se qualcuno qui possa pensare. Oh, avevo solo 14 anni quando... Oh, avevo solo 9 anni quando... Oh, avevo solo 12 anni quando... Oh, avevo solo 4 anni quando... Quando ho cominciato, Johnny. Johnny era un tipo alquanto a moda, secondo me. Alquanto strano, secondo mia madre. Alquanto violento, secondo mio padre. Alquanto sexy, secondo il mio amico gay. Alquanto cheap, secondo la mia amica bella. E alquanto cretino, secondo la mia amica brutta. Comunque, tutto è cominciato quando ho conosciuto Johnny. L'ho visto e ho pensato. Sovè! A lui darei anche... Il cuore! Il cuore è una parte di me che non funziona. Pompa! Sì! Pompa! Ma non funziona bene. Serve solo a pompare il... Cazzo! A pensarci adesso avrei voglia di tornare indietro. E come dice mia madre, giuro che rifarei tutto nello stesso modo. Non cambierei niente della mia vita. Neanche le situazioni che mi hanno fatto soffrire cambierei. Neanche lui cambierei. Neanche lui in cambio di due padri normali cambierei. Nemmeno gli schiaffoni che mi dava mia madre. Niente. Non rinnego niente. Neanche... quel momento. Terribile, sì. Ma formativo. A 12 anni, appunto. Dio! Che momento quello. È lì che ho iniziato veramente a crescere. Da quel momento è sbocciata la donna che è in me ancora oggi. Un fiore. Quando danzo, mi sembra di lanciare petali insanguinati intorno a me. Petali insanguinati dal mio stesso Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Così gli ho risposto. E più lui insisteva, più io andavo avanti e ricominciavo la preghiera immobile. Credimi io, e dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ero rapita. Non ascoltavo più. Forse avevo provato un dolore troppo intenso sotto... il cuore. Sotto. E no, non al cuore, sotto, andiamo e... Ah! E improvvisamente, oh, mi si era aperto davanti. Ah, un mondo magnifico. Oh, di perdono. Oh, e redenzione. Ah, e volevo comunicarlo anche a lui. Volevo che la mia stessa luce blu, ah, investisse anche lui. Oh, che continuava, gridando ormai, ad implorarmi di ascoltarlo. Oh, che mi avrebbe spiegato. Oh, che non voleva farmi del male. Ma io, in ginocchio ormai, ero passata all'Ave Maria, piena di grazia, benedetto il frutto del seno. Non potevo più smettere. Capivo il suo senso di colpa. Ah, ma non potevo fare a meno di perdonarlo e di chiedere a Dio, oh, l'assoluzione, oh, per... L'orgasmo non l'ho raggiunto ancora. Dicono che le donne prima dei 30 anni non sempre riescano ad averlo. Eppure io sono convinta che ogni uomo per me sia stato un orgasmo. Nel senso che è stato un amplesso. È iniziato... È finito. Inizia tutto con una passione travolgente e finisce con un'insoddisfazione, una stanchezza, una delusione che dura una sigaretta. È che infatti io dopo Johnny ho iniziato a fumare le sigarette, dopo Andrea il sigaro, dopo Luca la canne e dopo Alberto la coca ha iniziato a tirare. Ma ci ha voluto un altro Andrea per provare l'ecstasy, anche se non sarei mai arrivata all'ero senza Cristiano, che poi con lui la sniffavo e basta. È con Silvio che mi sono fatta il primo un buco nell'acqua, niente di più e forse niente di meno che un buco nell'acqua. Le sensazioni che provi quando cerchi di spiegare, di raccontare, sono diluite. Iniziano intense, di una densità rossa, come il sangue pompato da questo cuoricino inutile, che mano a mano che fa il giro del corpo si diluisce. Forse entra a contatto col sudore! Quello interno, intendo. Voglio dire, se sudiamo fuori, come suda fuori, la pelle suderà anche dentro. E quindi, visti gli sforzi che facciamo per amare, per provare forti sensazioni, il sangue deve scorrere più forte. E questo affatica il cuore, che sarà in una pozza, in un lago di sudore, ma anche le vene. E quindi il colore del sangue nel petto non può essere lo stesso di quello dei piedi, e tantomeno può avere lo stesso colore il sangue della vescica. Io poi, voglio dire, ho sempre buttato fuori la mia femminilità in un modo diverso. Ecco, io vorrei parlarvi del ciclo delle cose, questi corsi e ricorsi continui. Stancante, no? La perdita. Se cominci ad abituarti alla perdita, è fatta. Sei fottuto, ma hai imparato a vivere. E sono fottuti gli altri, ma impareranno a vivere grazie a te. Gratificante, no? Io mi sono sempre domandata perché gli altri non mi ringrazino mai. Eppure si vede che soffro, che ho sofferto per arrivare ad essere così. Perché bisogna essere molto sensibili per arrivare a ferire gli altri. Io credo che le persone più sensibili siano proprio gli assassini. Anzi, no. Quelli che ti torturano, che ti seviziano. Ci vuole una sensibilità speccata per intuire i tuoi punti deboli. Quelli veramente deboli, dove il segno resterà sicuramente, senza la possibilità di riprenderti, di dimenticare. La vita e la morte mi hanno sempre affascinato. Cosa c'è di più bello? Cosa c'è di più interessante di questo vivere e morire? Vivere e morire, vivere e morire. Oh, vivere e morire. Ah, scusate, anche nelle emozioni quotidiane, negli appuntamenti d'amore, nello svegliarsi e andare a dormire, nello sposare una causa e poi rinnegarla. Cosa c'è di più bello della felicità e della tristezza di una pianta? Prima verde smeraldo e poi gialla. Cosa c'è di più bello del sapore di un cibo che sta per finire? Mangiare e vomito tutto quello che ho dentro perché mi fa sentire pulita, purificata. Il piacere di incontrare qualcuno vuota, completamente vuota, pronta per essere riempita e per svuotarmi ancora, mantenendo l'involucro valorizzato in quanto tale, senza deformarlo, riempendolo di volgarità. Il giorno del mio compleanno. Non ho mai festeggiato un compleanno da piccola, nemmeno da più grande. Quel giorno, sì, quel giorno lui mi ha fatto la festa. Si dice così, no? Ma non vale ancora, no? Adesso lo decido io. Quando voglio festeggiare e con chi. Lo decido. Io mi ricordo soltanto un giorno della mia infanzia. Io ho rimosso tutto il resto. Io forse sono rimasta piccola. Io forse ora la mia infanzia. Mi ricordo un giorno in cui mi sono fatta veramente male. Non mi ricordo l'età, ero proprio piccola, proprio piccolina. E mi sono fatta veramente male. Mi ricordo che stavo andando a cavallo, quindi forse non ero proprio piccolissima. E andando a cavallo, il cavallo a un certo punto ha saltato da solo, così, wow, tipo un canguro. Forse era un cavallo che gli piaceva saltare. E a un certo punto mi sono ritrovata appesa alla staccionata. Sì, proprio appesa. Perché io piccola, la staccionata alta, mancava solo una molletta e sembrava una mutanda stesa ad asciugare. E non respiravo più. E quando mi hanno portata a casa in ambulanza, mia madre mi ha tenuto in braccio tutto il giorno. Mia madre. Che poi voi forse non conoscete mia madre. Il che già è strano. perché tutti dovrebbero conoscerla, pensavo, da piccola. Lei è molto impegnata, ha molto da fare. Ha tanti amici, mia madre, tanti amici e poche amiche. È sempre stata fuori per lavoro con tanti amici. È sempre stata fuori per lavoro, mamma. Tranne quel giorno che mamma ha lasciato tutto per me. Un intero giorno e un'intera notte. Mamma. Solo questo ricordo.